come ha già detto il mio professore, eravamo venuti per delle interviste e voglio sapere come si chiamava. Romina Antonini. Romina? Antonini. Bel nome, Romina. Grazie. E lei vive qua a Lizzana, comunque, col fatto che... No, vivo a Marco. A Marco. Posso farle una domanda un po' più esterna? Siccome col fatto del pollo e tutto, voi vi spostate o state fermi? Noi ci spostiamo tutti i giorni. In tutto Rovereto? No, in tutto il Trentino e il sabato in Alto Adige, il mercato di Bolzano. E quanto passate tempo a casa? Quanto tempo passate a casa vostra col fatto che spostamenti e tutto? Poco, a casa poco, e la sera, e pomeriggio tardi la sera. E a casa, poi dove ho anche l'appartamento, anche i magazzini, allora qualcosa di più, però sono sempre al lavoro, ecco. Cosa, io volevo chiederle anche, quindi, cosa sente lei? Suoni, no? È una cosa che magari non fa attenzione. Lei sente suoni magari particolari nel lavoro, che ci sono in tutti i giorni, no? Magari un suono particolare proprio che la... Un suono che c'è sempre? Sì, sempre. Ascolta questo suono qua.